Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Scenda dalla macchina, signore. Volete sentirne una carina? Esca subito dalla macchina. Certo. Eseguo. La voce suadente e fintamente arrendevole che avete appena sentito appartiene a George Clooney, che per l'occasione si è travestito da bandito. È sul set di Out of Sight, pellicola del regista Steven Soderbergh, in cui un ladro gentiluomo si innamora della bella poliziotta che ha le curve di Jennifer Lopez. Un personaggio di indubbio fascino, ma decisamente sfortunato coi motori. L'arresto cui avete appena assistito non avrebbe avuto luogo se non fosse stato per quell'ammasso di candele e fusibili pigri e recalcitranti. Ogni bandito che si rispetti lo sa fin troppo bene. La buona riuscita di una rapina spesso dipende dal buon funzionamento del mezzo di locomozione e dunque di fuga. 27 banche in 3 anni. Cristo. Arrivano e se ne vanno in 90 secondi. Non sparano mai a nessuno. Insomma, lo hai capito di chi parliamo? Stiamo parlando di veri professionisti, Utah. Sanno muoversi? Certo. Conoscono alla perfezione gli ambienti. E si limitano a prelevare solo il contante degli sportelli. Non attaccano mai il cavo? No, non attaccano mai il cavo. Non sono così ingordi. Sono furbi. Si perde tempo nel cavo. Certo, esatto. Reagan di solito è al volante. Auto di scambio rubata, col motore acceso, sul marciapiede. Sembra parcheggiata da lontano. Poi, durante la fuga, la mollano e spariscono alla velocità del suono. La stessa di una diciottenne che perde la verginità alla festa dei diplomati. Se i poliziotti con George Clooney sono stati fortunati, gli è andata peggio con Patrick Swayze, che in Point Break del premio Oscar Catherine Bigelow saccheggia indisturbato le banche californiane insieme alla sua fedele cricca di rapinatori surfisti. Il trucco, anzi lo sberleffo ideato dai protagonisti di Point Break, è quello di indossare maschere di plastica che ritraggono le facce degli ex presidenti americani per poi ripulire rapidamente le filiali e filarsela veloci a bordo di un'auto che sta lì fuori ad aspettarli col motore già acceso. Un gioco perfetto nella finzione, così perfetto da suggerire a qualcuno di tradurlo anche nella realtà. Un colpo in stile Point Break. Al posto delle maschere di Johnson, Nixon, Carter e Reagan, i malviventi indossano quelle di due politici di casa nostra, Berlusconi e Dell'Utri. Due fratelli, Michele e Matteo Manganaro, di 45 e 46 anni, dopo un viaggio da Catania riescono a introdursi nella filiale dell'Unicredit in via Pollenzo a Torino. La notizia risale al 2009 e ci trasporta improvvisamente dai territori della fiction a quelli più crudi della cronaca. Già perché il cinema e la letteratura, nel raccontarci infinite volte di rapine, bottini, guardie e ladri, non hanno fatto altro che ispirarsi alla realtà. Una realtà che a ben guardare si spinge piuttosto indietro, fino agli inizi del secolo scorso. Se le rapine e i saccheggi sono con tutta probabilità il secondo o il terzo mestiere più vecchio del mondo, la variante dell'utilizzo dell'automobile nasce praticamente con l'automobile stessa. La nascita del motore a scoppio segna un indubbio progresso per la civiltà e anche per l'attività criminale. Un veloce mezzo di locomozione è quello che ci vuole per seminare la polizia, un elemento fondamentale, tanto da entrare di diritto a far parte del corredo di armi e strumentazioni necessarie a portare a termine un colpo con successo. I primi esperti di questo genere rivoluzionario di rapina sono stati i nostri cugini d'Oltralpe e più precisamente i componenti di una banda che ha terrorizzato la Francia a cavallo tra il primo e il secondo decennio del Novecento. Stiamo parlando della banda Bonneau. Il colpo però va studiato, senza uno sbaglio, perché pericolo c'è. Si misero tutti al lavoro, 7 ragazzi in blu, non uno di più, e decidono che poco dopo le 3, quando il guardiano va a prendersi il tè, la rapina si fa con i mitra, però voilà la banda Bonneau. La banda Bonneau non si chiama Bonneau a caso. Uno dei suoi componenti, il più coraggioso e sprezzante del pericolo, nonché il vero esperto di motori di tutta la combriccola, risponde proprio al nome di Jules Bonneau. Jules Bonneau. Jules Bonneau, prima di diventare il nemico pubblico numero uno della Francia dei primi anni del secolo, fece tanti mestieri, molti legati alle automobili, le prime automobili della storia, insomma, quelle dei primi del Novecento. La voce che avete appena sentito è quella di Pino Cacucci, romanziere e autore di In ogni caso nessun rimorso, libro che racconta la vicenda di Jules Bonneau facendone emergere l'intensa e complessa personalità. In quegli anni d'inizio secolo, sospinti ma anche fiaccati dal vento del capitalismo, le figure di Jules e dei suoi compari si stagliano come un'ombra ingombrante e sinistra sullo sfondo della conquistata rispettabilità della società della Belle Époque. Per comprendere i motivi profondi che hanno portato un uomo a diventare il peggior nemico del suo paese, è necessario percorrere con calma la sua storia. Facciamo un passo indietro. Se lavori in fonderia, non devi aspettare di morire per conoscere le fiamme dell'inferno. Il signor Bonneau, padre di Jules, lo sa fin troppo bene, ma non può davvero fare nulla per evitare che anche suo figlio finisca in quella fabbrica maledetta fra truccioli, fumi pestilenziali, rumori assordanti e l'aria perennemente arroventata dalle temperature di fusione. Jules Joseph Bonneau, nato nel 1876 a Pont-de-Roide, quasi al confine con la Svizzera, è solo un ragazzino quando mette piede per la prima volta in quella bolgia infernale. Non ha altra scelta. Ha perso la madre ad appena 10 anni e il padre non ha tempo da gettar via in smancerie riguardanti l'educazione e la cultura. È già tanto se è riuscito a fargli avere un posto in fabbrica, la miglior scuola di vita che ci sia, anche la più dura. Eppure qualche sforzo educativo in quella realtà così abbruttita dal peso di un lavoro massacrante, il signor Bonneau cerca di compierlo, seppur invano. A parlarcene è il giornalista francese Jacques Pradel. Suo padre, analfabeta, operaio in una fonderia, fu costretto dalle contingenze della vita ad occuparsi dell'educazione del ragazzo, cosa particolarmente difficile vista la condizione davvero penosa di quel tipo di lavoratori. Jules abbandona presto la scuola. La disciplina in classe non è proprio il suo forte. Suo padre, nonostante gli interminabili e estenuanti turni di lavoro, ci prova a tirarlo su come si deve. Ma è proprio quella cruda, gretta, disperante realtà lavorativa a forgiare il suo carattere più di ogni altra cosa. A Jules non cresce ancora la barba, ma le sue idee sono già sovversive. L'inferno della fonderia, le crudeltà dei padroni sugli operai, la totale assenza di diritti si manifestano ogni santo giorno davanti ai suoi occhi impotenti. Intrapreso l'apprendistato a 14 anni e presto fiaccato da quel lavoro così miserabile, finisce a litigare spesso con i suoi padroni. Jules non è proprio capace di star zitto e di non farsi notare. A quell'età, giovane com'è, appena giunto alla soglia dell'adolescenza, ci crede ancora nella possibilità di un riscatto. Ma la vita, purtroppo, riuscirà a fargli cambiare idea. I guai per Jules non tardano ad arrivare. A 15 anni subisce la prima condanna per pesca illegale, mentre la seconda la sconta per avere scatenato una rissa in una sala da ballo. Almeno questo è quello che sostiene la polizia. Jules, per i tutori della legge, ha l'aria e l'aspetto ideali per fungere da capro espiatorio. Il suo viso, indurito dalle sofferenze e dalle privazioni di un'infanzia e di una giovinezza negate, non piace affatto agli uomini in divisa. Come se non bastasse, il ragazzo a 17 anni inizia a militare come anarchico e viene immediatamente schedato come sovversivo, agitatore dalle pericolose tendenze antisociali. Da allora nessuno lo volle più assumere in Francia. Come ricorda il giornalista Jacques Pradel, per Jules trovare e tenersi un posto di lavoro diventano imprese pressoché impossibili. Per fortuna in quel periodo gli tocca il servizio militare, nel corso del quale scopre la passione per le armi e la polvere da sparo, eguagliata soltanto da quella futura per gli ingranaggi e l'olio dei motori. Nel 1901, terminata la leva, si sposa con Sophie, una giovane sarta che subisce il fascino della divisa, e con lei decide di trasferirsi a Ginevra. La trova un posto di lavoro come meccanico e la moglie resta incinta. La vita sembra avergli concesso finalmente una tregua, ma non è così. Troppe vicende di nuovo sfortunate per fargli credere che qualcosa sia cambiato. La figlioletta muore appena qualche giorno dopo il parto. Bonneau si incupisce e trova sfogo ancora una volta nella militanza nel movimento anarchico. La sua fama di agitatore e di soggetto problematico arriva dunque anche in Svizzera e gli costa l'espulsione. Torna allora in Francia, dove l'indubbia abilità come meccanico gli consente di ritrovare trovare lavoro presso il costruttore di automobili Berliot di Lione. Nel febbraio del 1904 Sophie gli dà un secondo figlio, ma poi lo allontana, convinta che le sue idee anarchiche porteranno alla rovina non solo di lui, ma anche di lei e il loro bambino. Bonneau resta solo e abbandonato. Sembrava che le cose si stessero mettendo nel verso giusto, ma ancora una volta la vita lo ha sopraffatto, deridendolo col suo ghigno beffardo. La vita di Jules Bonneau è tutta in salita. Lo è stata fin da quando era solo un bambino. La sua è una personalità complessa, in cui si intreccia la dedizione per le cose che ama e la sfortuna di vedersele sottrarre puntualmente da un destino crudele. Ogni volta che resta a piedi, Jules si rimbocca le maniche e prova a ricominciare. La passione per i motori, trasformatasi in esperienza, nasce da un approccio totalmente autodidatta. A parlarcene è ancora un commentatore d'eccezione, lo scrittore Pino Cacucci. Era così abile nell'intuire come funzionassero allora i motori, che già erano comunque complessi, i motori a scoppio, forse ancora più complessi di quelli di oggi, che aveva trovato anche lavori specializzati, lui che da bambino faceva l'operaio in fonderia, quindi un'infanzia negata, un'infanzia amara. Però ogni volta per le sue idee anarchiche e per il suo fare il sindacalista veniva licenziato e quindi perdeva un lavoro dopo l'altro, finché non decise di emigrare in Inghilterra a tentare la fortuna. Dopo aver perso per l'ennesima volta il lavoro e dopo aver dovuto rinunciare addirittura alla famiglia, Jules decide che è il momento di cambiare aria. In Francia e nei paesi limitrofi, la sua cattiva fama si sparge in fretta. Le frequentazioni degli ambienti sindacali, frutto di anni di lavori massacranti e sottopagati, si sono rivelate un motivo di odio da parte delle fabbriche e delle gendarmerie d'Oltralpe. I padroni lo cacciano, i poliziotti lo stuzzicano. Bonneau non ha via di scampo se non quella di rimboccarsi nuovamente le maniche e attraversare la Manica. È proprio in Inghilterra che Jules Bonneau sceglie di ricominciare tutto da capo. Anzi, a dire il vero, non proprio tutto. Bonneau va nella terra d'Albione per fare un mestiere che aveva già avuto il piacere di fare in Francia, quando per un breve periodo era stato l'autista di un dirigente della Berliot, fabbrica lionese di automobili, dalla quale era stato assunto e poi puntualmente allontanato. Questa volta però Jules non si ritroverà a fare l'autista di un semplice borghese, ma di una vera e propria celebrità. E ancora una volta Pino Cacucci a raccontarcelo. Per i casi della vita, che sembrano veramente la trama di un romanzo, ma è realtà, finì per fare l'autista per Arthur Conan Doyle. In un'epoca in cui già Arthur Conan Doyle aveva maturato un'avversione per il proprio personaggio di Sherlock Holmes, perché se ne sentiva schiavo. Avete capito bene? Jules Bonneau, un irrequieto, sfortunato, complicato figlio di Francia, rifiutato in toto dal suo paese, emigra per prestare servizio a una delle personalità più in vista del mondo, anglosassone e non. Si tratta di uno scrittore, di un uomo che ai primi del Novecento ha già acquisito una fama straordinaria in virtù dei suoi romanzi, Detective Stories, che hanno per protagonista uno degli investigatori più celebri del pianeta, l'arguto Sherlock Holmes. Il suo autore, nonché neo datore di lavoro di Jules Bonneau, risponde al nome di Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle è in questa fase e trova questo autista molto bravo, questo giovane Jules Bonneau, e siamo anche in un'altra fase ben precisa della vita di Conan Doyle, cioè quella in cui mette a frutto le ricchezze ormai avute dai libri e la fama e la celebrità per riesumare casi e tentare di salvare persone che lui considera condannate ingiustamente. Quindi si crea tutto un giro, che so, di madri che chiedono udienza con Conan Doyle spiegando che il loro figlio è stato arrestato e condannato per un omicidio che non ha mai commesso. Arthur Conan Doyle, nel primo decennio del Novecento, è ormai stufo marcio del suo celeberrimo investigatore Holmes, come precisa Cacucci, e preferisce dedicarsi con spirito un po' indagatore e un po' umanitario alla risoluzione di gialli reali, di veri e propri casi di cronaca sfortunati. Stanco che i suoi sforzi si concentrino tutti e solo attorno a un personaggio di finzione, Conan Doyle preferisce attraversare in lungo e in largo la Gran Bretagna alla ricerca di testimonianze che scagionino uomini condannati ingiustamente. E quindi noi abbiamo un Jules Bonnot che lo porta in giro, che diventa un po' anche il suo confidente. Io fino a un certo punto l'ho immaginato, ovviamente, però è un dato di fatto che ci furono questi lunghi viaggi su questo che noi oggi chiameremmo macinino, però un'auto dei primi anni, insomma sarà stato il 1908-1909, Arthur Conan Doyle, giusto perché appunto poteva permetterselo, aveva una delle prime automobili in Inghilterra, in Scozia soprattutto. Jules Bonnot scarrozza Sir Arthur Conan Doyle attraverso i suoi viaggi alla ricerca di una salvezza per dei disperati che si proclamano innocenti con tutte le loro forze. Nella maggior parte delle occasioni questi viaggi purtroppo si riveleranno inutili e questo senso di frustrazione e sconfitta finirà per ripercuotersi anche sul fedele autista Bonnot, sfuggito alle miserie di Francia per ritrovarsi catapultato in quelle d'Inghilterra. Destini incrociati. Sa che sono passati 3 mesi dal tuo ultimo caso. Piano piano, Watson, con gentilezza. Non pensa che sia ora di trovarne un altro? Non posso darle torto. La mia mente si ribella al ristagno. Datemi problemi, datemi lavoro. Prima è meglio è. La mente fervida e indefessa, ansiosa di liberarsi dal ristagno, è quella di Sherlock Holmes, celeberrimo investigatore nato dalla penna e dall'ingegno di Sir Arthur Conan Doyle. Oggi Destini Incrociati si sofferma su un tratto della carriera del famoso romanziere britannico, nel momento particolare in cui la sua vita e la sua professione si incontrano con quelle del futuro bandito Jules Bonnot. Il francese, esperto di cilindri e leve del cambio, lo scarrozza in giro per l'Inghilterra proprio nella fase in cui Conan Doyle si dà alla risoluzione di veri casi di cronaca, o almeno ci prova. Lo scrittore, come ricorda Pino Cacucci, è decisamente stanco della finzione letteraria, non ne può più dell'investigatore con la pipa tanto amato e idolatrato dal pubblico. Fino all'ultimo dei suoi giorni lo ha stramaledetto, perché in qualche maniera lo riteneva colpevole di aver oscurato tutti gli altri libri. Conan Doyle amava scrivere di storia, scrivere di tante cose, persino di occultismo, insomma. Però i lettori volevano sempre una nuova storia di Sherlock Holmes. Certo, questo gli dava ricchezza, gli dava fama, ma lui insomma aveva sto cruccio che non diventava celebre per i libri che invece amava di più e amava continuare a scrivere. La saggistica non appassiona il pubblico quanto la narrativa. E quando nel 1893 Conan Doyle sceglie di far morire il personaggio per mano del suo acerrimo nemico, il professor Moriarty, i lettori si disperano. Scrivono lettere indignate, portano il lutto al braccio, organizzano persino scioperi nelle fabbriche. Conan Doyle è costretto a riportarlo in vita, ma il suo odio nei confronti di Holmes è ormai inestinguibile. Cerca di sublimarlo dedicandosi a veri casi di omicidio nel tentativo di scagionare degli innocenti in carne ed ossa. Si tratta di una nuova e interessante fase della carriera di Conan Doyle, personalità che certamente merita di essere conosciuta più da vicino. Ci sono due cose che la gente ama sempre chiedermi. Una di queste è come sono arrivato a scrivere i romanzi di Sherlock Holmes. Nell'inventare il suo amatissimo e al contempo odiatissimo personaggio, Conan Doyle ha unito due istanze, l'amore per lo svago letterario e quello per il rigore scientifico. Il futuro romanziere nasce a Edimburgo nel 1859 da una famiglia benestante. La madre fin da piccolo lo inizia alla letteratura, spronandolo a tuffarsi nel mondo dei libri. Già da ragazzino conosce sia l'inglese che il francese. Non è da tutti potersi permettere di leggere 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne nella versione originale. Per quanto riguarda gli studi, però, Arthur propende per un percorso di tipo scientifico. Si laurea in medicina all'Università di Edimburgo nel 1885. E al di là dell'amore per la letteratura, è la sua preparazione da uomo di scienza ad avere inciso di più sul personaggio di Holmes, come è lui stesso a raccontare. Innanzitutto, a proposito delle storie di Holmes, posso dirvi che un giorno ho incontrato un giovane dottore molto preparato dal punto di vista scientifico che mi ha influenzato molto. E mi capitava di tanto in tanto di leggere detective stories, ma quelle storie mi annoiavano, specialmente quelle vecchio stile in cui il detective sembrava sempre risolvere il caso o grazie a un colpo di fortuna oppure in maniera del tutto inspiegabile. Io invece sentivo il bisogno che mi venisse spiegato il perché lui giungesse a determinate conclusioni. Ho iniziato a pensarci e mi è venuta l'idea di applicare il metodo scientifico alla prassi del detective. Passione letteraria e metodo scientifico, acume per scovare le minuzie e capacità di ricomprenderle in un quadro più ampio, in una visione d'insieme. E voilà, l'indagine perfetta è servita. Holmes non è un detective qualsiasi, ma un fervente sostenitore del rigore scientifico, capace di trarre le sue conclusioni dall'accostamento dei più piccoli dettagli. È davvero una grande emozione conoscerla, Mr. Holmes. Mi hanno parlato molto di lei. Ho uno scaffale pieno di polizieschi, Wilkie Collins, Poe. È vero. A volte però può sembrare leggermente inverosimile fare grandi congetture basandosi su minimi dettagli. Non è affatto così. I piccoli dettagli sono di gran lunga i più importanti. Da studente di medicina, Arthur Conan Doyle ha la fortuna di incontrare il professor Joseph Bell, un grande appassionato del metodo deduttivo. Bell fa sedere nel suo studio il paziente. Lo scruta, gli fa aprire la bocca e gli fa immediatamente la diagnosi, indovinando anche quali siano la sua nazionalità e la professione. Il tutto basandosi solo sull'osservazione. Se il professor Bell fosse stato un detective anziché un medico, non avrebbe certo lasciato che le sue piste investigative venissero guidate dal caso, ma sarebbe arrivato alle conclusioni dopo essersele costruite empiricamente. Una volta entrato in questa modalità di pensiero, non è difficile pensare come Conan Doyle sia arrivato a concepire Sherlock Holmes. Questa novità nell'approccio investigativo si rivela avvincente, come racconta l'autore. All'inizio non ho attirato troppa attenzione, ma col tempo, scrivendo brevi storie una di seguito all'altra su una rivista, la gente ha cominciato ad accorgersi che erano diverse dal solito, che c'era qualcosa di peculiare in quelle storie, qualcosa di nuovo. E da quel momento in poi prese il via l'avventura di Sherlock Holmes. Ho scritto su di lui più di quanto avrei voluto, ma la mia mano è stata forzata da amici e lettori e il mostro è diventato piuttosto grosso per essere nato da un seme tanto piccolo. Conan Doyle ha cominciato a scrivere per svago, nei ritagli di tempo, tra una lezione e l'altra, o una volta laureato, tra un paziente e l'altro. Ma il fascino del suo Sherlock Holmes, pian piano, ha preso il sopravvento, catapultandolo nell'orizzonte della notorietà e del mito collettivo. Un mito che è cresciuto e si è consolidato al punto da diventare reale, travalicando la dimensione della finzione narrativa e imprimendosi, nell'immaginario dei lettori, come una persona fisica, un essere umano vivo e vegeto, a tutti gli effetti. La cosa più curiosa è che moltissime persone in giro per il mondo sono convinte che lui sia un essere umano in carne ed ossa. Io ricevo lettere indirizzate a lui in persona. In molti mi chiedono il suo autografo. Altri scrivono lettere a quel suo stupido amico, Watson. Ci sono signorine che addirittura si propongono come governanti. E se ci sono giovani inglesi disposte a mandare le proprie referenze, magari corredate di importanti credenziali, nella speranza di venire assunte come cameriere o segretarie dall'investigatore più celebre d'Inghilterra, non possono certo mancare le persone, spesso madri di famiglia, ansiose di accaparrarsi i servigi del signor Holmes, pronto, secondo loro, a mettere a frutto le sue abilità per difendere un figlio o un parente ingiustamente accusato di omicidio. La sovrapposizione tra il personaggio, Sherlock Holmes, e il suo autore, Sir Arthur Conan Doyle, è completa. Sarà infatti lo scrittore a farsi carico delle richieste sempre più pressanti di questa gente in cerca di riscatto e di giustizia. Con generosità, va detto, Conan Doyle si mise a riesumare, a studiare una serie di casi, tentando di far presto in alcune situazioni, perché magari erano condannati a morte che di lì a qualche mese sarebbero stati giustiziati, e in alcuni di questi casi, pochi in realtà, riuscì a dimostrare l'innocenza dell'accusato e a farlo innanzitutto riprocessare con nuove prove che lo scagionavano e a salvarlo, ma nella maggior parte di questi casi accumulava solo frustrazioni. Pino Cacucci racconta di come nella maggioranza dei casi i tentativi di Conan Doyle in questa nuova veste finiscano in un nulla di fatto. Lo scrittore, comodamente seduto sui sedili posteriori della sua Lanchester Landaulette, si scervella invano per trovare soluzioni a casi intricati, pressoché impossibili da risolvere. Al posto di guida, attento alla strada e ad ogni minimo ruggito sospetto del motore, c'è il suo autista personale, Jules Bonneau. È intellettualmente dotato per essere un semplice autista. Ha idee un po' anarchiche e spesso bizzarre, ma Sir Arthur lo trova un eccellente conversatore e si ritrova molto spesso a condividere con lui i patimenti dei suoi lunghi e spesso infruttuosi percorsi alla ricerca della verità. Bonneau lo ascolta e lo consola. Ma sul suo animo e sul suo cuore, sempre più spesso spettatori dell'impotenza degli uomini e dell'impossibilità di ottenere giustizia, inizia a stendersi un velo di tenebra, una coltre spessa come la notte, difficile da mandare via. There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. And I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. Destini incrociati. Destini incrociati segue il percorso di un'automobile, una Lanchester Landaulette dei primi del Novecento, che sfreccia, si fa per dire, tra le campagne del Sussex. A bordo, Sir Arthur Conan Doyle, famoso autore delle avventure di Sherlock Holmes, e il suo autista, Jules Bonneau, destinato di lì a poco a diventare un famigerato bandito ricercato in tutta la Francia. Jules Bonneau, in poco più di 30 anni, ci ha provato troppe volte a rigar dritto, a fare la cosa giusta. Ma il fatto di essere figlio della classe operaia in quegli anni governati dalle logiche del capitalismo non aiuta. Basta alzare la testa di un centimetro e hai chiuso. Jules ha perso un'infinità di lavori e ne ha trovati altrettanti. Ha saputo reinventarsi ed è finito da ultimo a fare l'autista di Sir Arthur Conan Doyle, che in quel periodo si sta dedicando a scagionare dei poveri innocenti, spesso tentativo vano. Col passare del tempo, in Bonneau, già fiaccato da una vita tanto dura, si fa strada la certezza che la legalità non sia affatto una via perseguibile. Conan Doyle, nonostante le buone intenzioni, non può far nulla per fermare le ombre che si addensano cupe sulla figura del suo autista. E quindi con questo autista, che diventerà un rapinatore famigerato e odiato dalla società, fa questi lunghi viaggi in cerca di prove per salvare innocenti. E ogni frustrazione sicuramente possiamo immaginare che viene assorbita anche dal giovane autista, che già anarchico, che già aveva accumulato a sua volta umiliazioni, che già la società gli aveva dimostrato che era tutto inutile, perché lui ci aveva provato a lavorare, lui ci aveva provato a mettere a frutto le conoscenze da autodidatta nel campo dei motori, dei primi camion, perché aveva lavorato anche alla Berlioz. Tutto questo era stato inutile perché la società lo aveva sempre ricacciato in un angolo. Se il mondo non cambierà mai, se la società resterà sempre identica e le opportunità di riscatto pressoché inesistenti, allora tanto vale mettersi direttamente dalla parte del crimine, quello vero, quello che fa paura alla gente ed è contrario al buon senso comune. Pino Cacucci ci spiega così la svolta definitiva nel pensiero e nell'azione di Bonneau, dovuta anche all'influenza di Conan Doyle. E alla fine, chissà se da queste frustrazioni aggiunte che gli trasmette Conan Doyle, che non riesce a salvare degli innocenti, quando si è convinto che la tal persona in carcere ingiustamente o verrà giustiziata ingiustamente perché non ha commesso quell'omicidio, sicuramente anche questo può aver influito nel fatto che a un certo punto Jules Bonnot torna in Francia e con un gruppo di amici anarchici e complici per la pelle, infatti moriranno poi tutti, chi con le armi in pugno, chi ghigliottinato, si mettono a rapinare banche dicendo: bene, questa società ci ha dichiarato guerra, non gliel'abbiamo dichiarata noi, andiamo a colpirla in ciò che più le sta a cuore, i soldi. Non certo per arricchirsi, ma per così spargerli e donarli ai tanti minatori disoccupati, ai tanti che facevano una vita grama a quell'epoca e di cui sappiamo più attraverso i romanzi magari di Zola che attraverso le cronache della Belle Époque. Diventare banditi per migliorare la società, o forse diventare banditi per disperazione, perché tanto non c'è modo di migliorare un bel niente. I componenti della banda Bonnot sono più nichilisti che propositivi, più vicini a Nietzsche che a Robin Hood. Per loro la lotta armata diventa l'unica via possibile per inserirsi in quella stessa società civile che li ha da sempre rifiutati. C'è un solo modo per i componenti della banda di guadagnarsi il rispetto dei ben pensanti: puntar loro una pistola alla testa e godersi la soddisfazione di vedere la paura dipingersi sui loro volti. Je la connais pas. Ça va en 8 minutes. Dédé sort son attirail. Je vois. Un altro incontro, oltre a quello con Sir Arthur Conan Doyle, si rivela fatale per Jules Bonnot, che dalla guida dell'auto dello scrittore inglese passa a quella decisamente più pericolosa delle automobili rubate e utilizzate per saccheggiare le roccaforti della borghesia. Un uomo che di soprannome fa Platano e che ha tatuato sulla sua pelle tutto il disprezzo per la società civile e per le sue regole. In ogni caso, nessun rimorso. Ecco quello che Platano ha voluto imprimere sulla sua stessa carne, a lettere capitali, per scongiurare l'eventualità remota di scordarlo. Jules è affascinato e insieme spaventato da questa losca e intrigante figura di bandito. I due diventano inseparabili, così come inseparabili sono le motivazioni che li spingono ad agire nell'illegalità. Entrambi non hanno nulla da perdere. E quindi questo grande paradosso della storia, della cronaca, che sfiora appunto la realtà romanzesca, abbiamo un ex autista di Arthur Conan Doyle che diventa rapinatore autista di altre auto e sarà quello che farà le prime rapine in banca in automobile, diventando lo spauracchio dei ben pensanti parigini. A Bonnot e Platano si uniscono altri ex anarchici e combattenti, uomini che hanno perso totalmente le speranze e credono che l'unica via sia quella della disobbedienza. Tutti i componenti della cosiddetta banda Bonnot finiscono per perdere una partita che in ogni caso già sapevano che sarebbe finita male. Alcuni arrestati, alcuni incarcerati, altri giustiziati, altri ancora caduti nei feroci scontri a fuoco con la polizia francese. Jules Bonnot, riuscito a sfuggire ai gendarmi fino a pochi istanti prima di morire, è proprio tra questi ultimi. Per sconfiggere la tempra d'acciaio di Jules Bonnot, forgiata come infonderia da una vita fatta di delusioni e soprusi, ci sono volute decine di poliziotti, un battaglione di zuavi con due mitragliatrici al seguito e un distaccamento del 23esimo Dragoni. Mentre Bonnot cade sotto i colpi dell'artiglieria francese, Sir Arthur Conan Doyle invecchia serenamente nella campagna inglese fino al giorno in cui, quasi per caso, scoprirà il lato oscuro del suo amato autista di un tempo. Tutto questo però Conan Doyle non verrà a saperlo finché Bonnot lo compie. Cioè, nonostante che Jules Bonnot fosse diventato famigerato più che famoso in tutta la Francia, ma quindi con echi sicuramente nel resto d'Europa, non giunge in qualche maniera alle orecchie di Conan Doyle, perché solo qualche anno dopo, continuando queste sue ricerche in criminologia, evidentemente non solo per continuare a scrivere storie di Sherlock Holmes, ma anche per i suoi interessi personali che abbiamo appena visto, capita Conan Doyle con un suo amico nel Museo di Criminologia di Lione, perché poi Bonnot era di Lione, dove poco tempo dopo aver ucciso Bonnot già avevano trasferito lì le sue pistole, tutto ciò che avevano recuperato, insomma munizioni, scritti, foglietti, l'ultimo addio e anche la sua foto, varie sue foto. foto in alcuni casi segnaletica dei tanti arresti che aveva subito. E l'amico prende per un braccio Conan Doyle e gli dice: ma ti rendi conto, guardalo bene, questo era il tuo autista qualche anno fa. E così Arthur Conan Doyle scopre di aver trascorso tante ore in auto, di essersi confidato, di aver anche confessato le proprie frustrazioni quando non riusciva a risolvere questi casi, a salvare degli innocenti, con quello che adesso si ritrova lì in una foto e che il museo gli presenta come il più pericoloso assassino, rapinatore, anarchico della storia della Francia. Uno tra i più grandi giallisti d'Inghilterra, ebbe come autista uno tra i più inafferrabili e testardi nemici di Francia. Il primo ladro in assoluto ad avere mai rapinato una banca con l'automobile l'11 dicembre 1911 al 156 di Rue Ordener a Parigi. Certamente, se Bonneau avesse continuato per tutta la sua vita a guidare l'automobile di Conan Doyle, le cose sarebbero andate in modo molto diverso. Ma in ogni caso, nessun rimorso. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.